con il drammaturgo regista Gioele Anastasi di Vucciria Teatro per parlare dello spettacolo Immacolata Concezione a Roma al Teatro India dal 19 al 24 febbraio 2019. Gioele, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato. Lo presenti, lo descrivi brevemente? Allora, Immacolata Concezione è una storia ambientata alla vigilia dell'ingresso dell'Italia in guerra, quindi siamo all'inizio degli anni 40, e racconta un po' le vicende di Concetta, questa giovane donna, figlia di un pastore che perde tutte le capre per un'epidemia, che viene quarantata in cambio di una capra gravida. In pochissimo tempo Concetta diventa la prostituta più ambita di tutto il paese, non si sa bene per quale motivo, non si sa che cosa passa dentro queste stanze per riscuotere così tanto successo. In realtà poi la storia ci rivela probabilmente il motivo del suo successo, che non ha niente a che vedere con le sue capacità, dire, con le sue prestazioni fisiche, con qualcosa che va assolutamente oltre. Dentro la scopa di Concetto, in qualche modo, c'è un portale, potremmo definirlo, che conduce un po' tutti i clienti verso un mondo parallelo. Di un futuro che può prevedere un futuro plasmabile, che dà delle speranze per un futuro plasmabile in un momento appunto particolare come quello della Seconda Guerra Mondiale, che sappiamo rappresenta poi per tutti un momento molto particolare a livello storico. Quindi in qualche modo la sua ingenuità, la sua purezza li conduce verso un futuro in cui l'amore è ancora possibile. Ma come si fa l'amore? Non solo attraverso il corpo. E quindi questo è un po', diciamo, il contorno di questa vicenda della storia di Immacolata Concezione. Com'è nato tutto? Ma lo spettacolo nasce da un'idea di Federica Carupa Toscano, appunto l'attrice che interpreta il ruolo di Concetto, che insomma Vucciria Teatro insieme a me, ad Enrico Sortino, dall'inizio, dal 2012, da quando fondamentalmente ci siamo uniti per iniziare un percorso artistico insieme. L'idea è la sua, che comincia a tracciare nella sua testa i contorni di questo personaggio, mi racconta un po' qualcosa dei sapori, delle caratteristiche. Io in realtà poi le dico subito che era una storia, mi sembrava l'inizio di una storia meravigliosa, ma non avevo in quel momento, le ho detto chissà come si può raccontare una storia di questo in teatro. E poi nulla, in realtà qualche mese dopo ho cominciato a scrivere il monologo finale, quello da cui in realtà poi parte tutto lo spettacolo per me, e da lì l'ho chiamato e ho detto ma forse ho un'idea su come potremmo raccontare questa storia. E quindi da lì è iniziato tutto un percorso che ormai dura da qualche anno, perché lo spettacolo appunto più o meno già 2 anni che abbiamo iniziato a lavorare su questo spettacolo. Ed è stato un lavoro molto condiviso con la compagnia, col contributo anche drammaturgico di Alessandro Lui, a livello di. È stato un lavoro molto, molto corale, molto condiviso con tutta la compagnia, che ci ha portato poi allo sviluppo della versione insomma, che potete vedere in questi giorni a Roma. Abbiamo fatto appunto anche, sono stati finalisti e vincitori dei Teatri del Sacro, l'edizione numero 5, anche quello ci ha permesso poi una genesi interessante del lavoro. Ci siamo presi abbastanza tempo e continuiamo ancora oggi a cambiare, mutare, però questo ci piace perché è il nostro modo anche di vedere il teatro, qualcosa che è in movimento. Oh, prima parlavi del contesto storico, si sente di tanto in tanto in sottofondo la tuonante retorica fascista. Infatti la realtà quotidiana anche al sud è pervasa da prevaricazione e odio. Sì, anche se più che essere per me, per noi, lo specchio di una realtà del sud, una realtà isolana, è più lo specchio di qualcosa di diffuso a livello globale. Perché? Perché la Seconda Guerra Mondiale in qualche modo ci rappresenta per noi tutti l'ultimo grande evento, uno degli ultimi ormai purtroppo grandi eventi di cui un po' tutti abbiamo una memoria collettiva che ormai è incisa nelle nostre menti, che rappresenta un po' un momento cardine nel quale l'uomo ha dimostrato purtroppo a se stesso come è possibile disumanizzare un altro corpo, come è possibile reificare un altro essere umano. E quindi in qualche modo la Seconda Guerra Mondiale è stata scelta nella nostra storia anche per questo, perché rappresenta un momento in cui l'uomo sembra aver perso qualsiasi accezione sacra del corpo di un altro uomo. E allora quello che noi in qualche modo cerchiamo forse di ritrovare è anche questo rapporto del teatro che può e della società, quindi, che può riscoprire una sua sacralità, che chiaramente non ha nulla a che vedere con una religiosità, perché parliamo di due cose molto differenti, ma che noi crediamo sia molto importante. Ecco, raccontiamo anche un po' l'esperienza Vucciria Teatro. Sì, Vucciria Teatro nasce fondamentalmente tra il 2012 e il 2013. Io ero giovanissimo, ho iniziato a scrivere all'inizio di quello che è stato poi il nostro primo spettacolo, il mio momento con nessuno avevo fatto. Ci siamo uniti con Enrico Sertino, abbiamo fondato, che è stata fondamentalmente la prima persona a cui ho fatto leggere il testo di Io Niente con nessuno avevo fatto, e insieme abbiamo creato quello che appunto è la nostra compagnia da un paio di anni. Federica è stata subito coinvolta e da lì è cominciato un percorso che è iniziato come una compagnia indipendente, perché è da lì che veniamo, da Roma in realtà, sul nostro territorio di sviluppo iniziale, perché tutti ci trovavamo appunto su Roma, pur portando avanti sicuramente una poetica che ha toccato e che continua a toccare, non sempre ma spesso, anche quello che sono tantissima atmosfera, potremmo definire appunto del sud, perché utilizziamo molto la lingua siciliana, non solo il siciliano ma anche altri dialetti del sud. Da lì arrivano vari spettacoli, vari premi a livello nazionale e internazionale, sono stati vincitori del Roma Film Festival nel 2013 e poi del San Diego International Film Festival nel 2014, un altro riconoscimento appunto è venuto con Teatri del Sacro ormai qualche anno fa con Immacolata Concezione, e nel nostro cammino abbiamo incontrato tantissime persone in realtà che ci hanno in qualche modo aiutato nel nostro cammino, l'ultimo tra le quali è appunto il Teatro Bellini di Napoli, che dall'anno scorso è diventata la nostra produzione, che quindi ci sta accompagnando probabilmente in quello che sarà un nuovo momento del nostro percorso. Questo ci fa molto piacere, che è appunto un'istituzione privata ma finanziata comunque dal Ministero, di attenzione a una realtà giovane, comunque in sviluppo. È stato del tutto casuale, perché appunto ci trovavamo programmati nel loro teatro e da lì è nato un amore, e in qualche modo stiamo cercando di vedere dove ci conduce questo amore. Ecco, a proposito di percorso, Immacolata Concezione continuerà il suo viaggio? Sì, assolutamente sì. Tra le altre cose, la prossima tappa è molto vicina, 7, 8 e 9 marzo, saremo a Firenze al Teatro di Rifredi, un altro teatro che in realtà ci segue fin dall'inizio, che ha ospitato praticamente quasi tutti i nostri lavori e con cui abbiamo fondato in questi anni un rapporto molto, molto bello. Quindi sì, 7, 8 e 9 marzo saremo a Firenze al Teatro di Rifredi. Ci lasci tutti i riferimenti internet per seguirvi? Certo, www.vucciriateatro.com, il nostro sito internet, e poi ovviamente siamo attivi su tutti i social, impossibile non esserlo, quindi su Facebook, la pagina Vucciria Teatro, Instagram, è questo, di più ancora ci aggiorneremo anche per gli altri social. Ricordiamo lo spettacolo Immacolata Concezione. a Roma al Teatro India dal 19 al 24 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al drammaturgo regista Gioele Anastasi di Vucciria Teatro. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, ciao, a risentirci.